episódio de hoje. Mafioso, io! Don Politichieri, Don Politichieri! Parla! O senhor já leu o jornal de hoje? Perché? Che tem lá? Fala di io! Fala, chama o senhor de mafioso. Dame qui. Il mafioso del palazzo. Ma che mafioso? Io mafioso! Ah, dame qui il telefono, che io vo a telefonare per il direttore di questo giornale maledetto. Buona tardi, una pinoia, ecco. Io quero parlare con il direttore di questo giornale. Chien parla? Ma come chien parla? Don Politichieri, caspira puttana. Chiama logo questo maledetto direttore. Buona tardi. So si vuol para signora tua mamma. Miton, io sono mafioso, Il nostro patto, nostra alleanza. Tutto bene, io intendo. Sì, si sa che io sono un uomo di bene, Non gosto da guerra. Vamo firmare la pace, è vero? La pace eterna. Ecco, io vo a mandare i miei bambini nella faiate da levare un presente, bravo che. Oh sì, un terno italiano, ciao! Roberto! Chiamò Don Politichieri. Passa la norfaiate, gli incomenda un terno di cimento per questo maledetto, perché con mia onra mi gameshe, capisce? Mafioso, mafioso, mafioso, mafioso, mafioso, io, ecco!